Adige, gli alberi di mele. Nella mia testa vino rosso e malinconia. Io potrei partire da qui uno di questi giorni, ma il mio cuore è sepolto nel cielo tagliato dai monti. Resina di abete sono le mie lacrime, silenzio delle cime il mio silenzio. Di nuovo cade il buio sulle mani. Non conosco il tramonto della sera, non vedo il nero della rondine. Io che so dove questo c'è, io sento il mare. Pietro di Spazio, lezionario delle cose che non conosco. Io non so cosa sia una cosa. Per il lupo la cosa è un agnello. Ma io non mangio agnelli. Io invece ho paura delle cose. Esse si nascondono dietro le altre cose. Fanno un mucchio, una montagna. Hanno nomi segreti. Sei guardato a vista dalle cose. Non c'è pace con le cose. Per questo io fuggo dalle cose, dal loro peso, dal loro numero, dalla loro misura. Ma non c'è salvezza dal loro cosare. Le cose sono come uccelli rapaci, ti beccano da ogni parte. Se hai una cosa, sei condannato dalle altre cose. Le cose sono tremende, aumentano, non muoiono mai. Le cose sono piene di noia, occupano ogni spazio, ogni pensiero. Frasca Mariano Ciro. Terra. Terra dolce, che ondeggi in declivi. Ti accarezzano i prati, ti proteggono i boschi. Terra brulla, sferzata dal vento. Custodisci arcani silenzi. Sotto la neve riposi tranquilla, poi piangi con fiumi e ruscelli. Ti arrabbi, ti spacchi in burroni, ti offendi e ti chiudi nel ghiaccio. Dai vita alle tue creature e alla fine le copri gelosa. Eugen Galasso, Prometheus. E li vedevi poi, neanche troppi anni fa, suonavan settembre a Merano, promenade sin là, passavi fremente, ansimante, ripensando a cose d'un tempo. Tempo volava già come un lampo. Fin de siècle. E più non penserai ricordi infranti, azzurro, verdi orrori, ti restan studi matti, quel che segue, grandezza, gnosi, varietà, glabri, percepiti amori, mentre vedi morte dei più cari, grigia disperazione, stoltezza festeggianti, san petardo. Garlato Francesco, curiosità. Piccola goccia, schiacciata sul vetro del vecchio abbaino, si ferma, è incerta, curiosa mi sembra. Polvere di forme, rimembranze lontane, come danze di vaghe ombre, forse ricerca. Ma è buio di là del vetro, come un velo di dolcezza assopita. La goccia ha un fremito e scivola lesta, ancora s'arresta, per poco dubbiosa, e infine si cala. L'assorbe la crepa del legno tarlato. Anna Maria Gentile, Petali di rose. Un cammino lungo o breve, attimi fatti di anni, sospiri, sogni, ideali racchiusi in un pizzico di eternità, spine che colpiscono, crocifiggono, Là c'erano la carne. Si giunge al traguardo sfiniti. Il corpo è una grande cicatrice, grande, enorme, che ricerca nel sonno la pace. Ed i petali, dolci, impalpabili, vellutati, ali di farfalle che sfiorano le brutture, leniscono le ferite della vita e durano un nulla. Lenti ondeggiano flessuosi, si staccano dallo stelo. Ad essi è legato l'attimo di gioia, il bene infinitesimale della vita. Petali di rose tra rovi e spine. Gianfranco Giacomuzzi, Risurrezione a Venezia. Tra scintillanti case d'oro che sorgono dall'acqua come la vita. L'incontro con una vita passata è come l'immagine di due sposi, senza volto, dipinti di fronte alla laguna dove sono annegati e poi risorti. Alba Giampiccolo, riflessione. Come un fiume lento e discreto, il tempo scorre e va. È la vita, che come il fiume spesso trascina travi pesanti, e moscerini dolci e silenziosi danzano su di esso, come pensieri nei meandri umani. Sandro Guarneri, D'autunno in bicicletta. Uscendo da Bolzano verso Merano e l'Adige, m'avvio di franca lena in bicicletta ai campi di peri, vigne e meli. Lascio asfalto e sfioro, penetrando nei viottoli le foglie animate dal vento dell'autunno, con pause di silenzio. Quasi in sogno rammento le mie trepide corse di ragazzo, dal borgo arso dal sole estivo, alle sabbiose anse dell'olio. Addio, meriggi d'afa, rotti da un frullo d'ala o dalla schiuma dell'acqua gorgogliante tra le canne celate nei meandri. E grappoli di nuvole s'appigliano al sole scialbo sulle grigie rocce del Penegal, proteso come un uomo sofferente nel cielo. Cesare Guglielmo, un caro amico che non c'è più. Quando sono in attesa della luce, colgo spazio di una vasta vallata. L'orecchio segue flussi e riflussi di echi. Speranza, promessa di Dio. È la promessa di Dio che guida la foglia secca al mare. È la promessa di Dio che agita il sangue nelle mie vene indurite. È la promessa di Dio che dà senso alla vita e alla morte. Larcher Andrea, ricordo sepolto. scavi nostalgie nel cuore trasognato e abissi delusi d'amore che dolcemente predano la mia mente fanciulla. Poi, quando in te riparo, nella sinfonia che sgorga dal tuo petto, al palpito furtivo e dolce, mi devasti. E per amarti, o creatura, soccombo, perduto nei meandri del ricordo. Franco Latino, Notte d'eremita. Lasciatemi eremita, su coperte di cartoni a guardare la luna che nel fiume allegro in questa parte, con luce di stelle tra i sassi si specchia e si frantuma. Lasciatemi la barba e la pelle alle carezze di mani d'aria leggere, in questo canto di cicale e dolce fremito d'ali di grilli a solleone. Al mio cuore bussate domani, zuccheri e inganni, angosce di metropoli. Claudio Lunardi. Carezze. Un foglio bianco adagiato sulla scrivania. I ricordi, le immagini nel silenzio, l'emozione di rare parole indecifrabili fra le pieghe di lenzuola squalcite, le violacee labbra di un pallido sole. Emozioni, giochi di sguardi, sconosciuti sorrisi, nel dolce sfiorarsi, fra abbandonate emozioni, nel tepore della sera, qualche fremito, estranei seduttori dei nostri sogni. Chiudiamo la prima parte e ridiamo la parola al professor Galasso. Grazie. Ecco, un volume naturalmente è fatto anche da materiale grafico e qui volevo mostrare l'illustrazione che è di Luana Angermayer, che ha dato un contributo essenziale alle pubblicazioni della LATMA. C'è quasi un feu rouge che del resto è quello delle interrelazioni delle arti, no? Quando noi parliamo di sinestesia è un qualcosa di noto: colori, suoni, odori, sapori, tutto si tiene e questo è noto. Oggi sappiamo che per esempio anche con gruppi o di anziani o di giovani che presentino dei problemi o gruppi situazionali di qualunque tipo, un metodo come InterArt, quindi lo scambio tra le diverse esperienze artistiche, tra le modalità artistiche, può servire. Persino, faccio un esempio personale, una persona quale sono stato io, che alla scuola media ha avuto uno shock terribile perché c'era un'insegnante di disegno rigidissima e che pretendeva certe cose, ecco, poi si sblocca quando ci sono altre possibilità. E lo stesso vale evidentemente per la musica, vale per altri ambiti, anche in chi può essere il caso di qualcuno, non credo dei presenti, si senta musicalmente o stonato o al di fuori, diciamo, dell'armonia, della melodia, del ritmo. In realtà non è mai così. E c'è sempre un di più che in qualche modo può emergere. Ecco, qui direi Luana Angermayer comunque ha dato da artista, non da persona che improvvisa, ha dato invece una grandissima essenzializzazione a quello che è il messaggio, ecco, che poi sia... diciamo un messaggio in senso proprio, io ai messaggi credo poco notoriamente, ma diciamo i messaggi li porta il postino, Alfred Hitchcock, no? Credo sia una frase straordinaria, no? C'è una produzione di senso al di là del messaggio, no? Diceva Raboni, Giovanni Raboni, grande poeta milanese di recente, In genere c'è sempre una parola in più che dà il senso anche rispetto al pretesto che il poeta aveva in mente. Qui citerò anche con grandissimo disdegno da parte del dottor Mariani la grande frase di Paul Valéry, che dice la prima parola poetica viene da Dio, le altre dal lavoro. Dio non nel senso confessionale del termine, ma Dio come cifra, come grande simbolo evidentemente. Il lavoro è il lime labor, ecco, questo è il problema. No, io notavo e credo che... Siamo più o meno tutti d'accordo. Abbiamo visto della poesia euforica o comunque della poesia lieta, della poesia armonica, anche le strutture metriche la favoriscono. Abbiamo delle poesie che sono invece disforiche e esprimono la malinconia, il mal d'être moi, no? Il male d'essere me che è dell'esistenza e non solo della poesia. Se noi guardiamo veramente non è più neppure il caso, no? È la cabale, si dice in francese, che non è la cabala nel senso banale, ecco. È la vecchia parola che si adopera per il gioco, no? Per il gioco di dadi, hazard, che in arabo comunque hazard, adesso non so pronunciarlo, ma deriva da questo, deriva dal gioco di dadi, no? E questa spaventosa condizione per cui ci si trova in un treno o in una metropolitana di una grande metropoli europea e succede quanto succede, che sia poi lasciamo perdere responsabilità o altro, non le lasciamo perdere, ma naturalmente come poeti non è possibile né fotografare... Diciamo l'evento sarebbe fare un'altra cosa, sarebbe fare il documentarista, il giornalista, il fotografo o quello che volete, né direi almeno per quanto riguarda credo parecchi di noi, non è lì che facciamo della né esistenzializzante né facciamo delle riflessioni politiche che lasciamo ad altri generi, no? Lasciamo al saggio, lasciamo l'articolo, eccetera. Ha scritto invece Mario Luzzi molto bene di recente, il male resta male, non è che lo togliamo, ma il privilegio di essere detto lo rende forse, attenzione all'avverbio, forse più umano. Cosa vuol dire? Che il poeta, evidentemente per se stesso e anche forse per i pochi lettori, famosi 25 lettori, forse meno per la poesia, qui non sappiamo mai, Ecco, il rende per un attimo, o forse per un po' di più, più sopportabile, diciamo, questa esistenza, appunto, data in pasto alla brutalità e, diciamo, all'eccidio più stolto. Delle considerazioni conclusive. Abbiamo sentito e sentiremo ancora poesia dove c'è l'allitterazione, dove c'è l'anafora, dove ci sono altre modalità, ci sono rime interne, c'è la rima classica, talora riaffiora addirittura l'endecasillabo. Ecco, questa pluralità poetica, appunto, è quello di cui diceva all'inizio il collega De Marchi, è in qualche modo l'unità nella profonda anche diversità stilematica e anche tematica, questo è ovvio. Una considerazione, direi, si impone. Io ho trovato questo articolo, che è anche stimolante, nel Corriere, insomma nell'inserto del Corriere qui locale, L'anima doppia nel linguaggio, di Milena Wiesentenner, che è una professoressa, forse in pensione, ora non so, a Merano, ecco, che fa delle considerazioni sulla contaminatio linguistica, sulle contaminazioni linguistiche. Complessivamente ci sono delle osservazioni giuste, però, ecco, dire che l'intercalare no, che ricorre molto di frequente anche da noi, sia un calco, una traduzione dal net tirolese, su questo avrei dei dubbi, anche perché n'est pas in francese non, altro no anche in spagnolo, in alcune zone, in alcune regioni dell'Inghilterra, anche addirittura nell'americano ci sono sono gli intercalari che ricorrono praticamente sempre, un po' in tutte le lingue, con modalità più o meno diverse. Non conosciamo né lo swahili né le lingue asiatiche, purtroppo, ma sicuramente anche lì ci sono queste modalità. Ecco, e un'altra osservazione è quella sull'avverbio che precede il verbo o precede il sostantivo. Ecco, anche qui ci sarebbe da dire molto. In questa raccolta ci sono poeti di lingua tedesca e non solo mistilingui, prettamente di lingua tedesca, il grande Josef Maurer, giustamente commemorato da Silvano, Maria Luise Maurer e anche Wert Dagmar, Dagmar, che ha pubblicato un volume un anno e mezzo fa, due anni fa, e anche così citato solo anche perché abbiamo avuto problemi a reperire i testi del compianto Hans Moore. Ecco, non è che lì ci siano queste modalità di precessione, anzi, per esempio, Maurer ha uno stile arioso che riprende indubbiamente la classicità, come notava il professor De Marchi. E in altri poi abbiamo particolarità che qui ci porterebbero molto fuori dal seminato. Però, ecco, non è che portino nell'italiano, pur essendo prettamente di lingua tedesca, non è che portino una specificità tedesca a livello o lessicale o sintattico. Ancora una brevissima notazione: è normale nella poesia, penso a un grande, mi si permetta, poeta moderno, Pierpaolo Pasolini, la precessione dell'aggettivo rispetto al sostantivo. È normalissimo, non è un calco dalla lingua tedesca o un calco da altre lingue, insomma, ecco, anche perché oggi semmai bisognerebbe considerare un'altra influenza determinante, che è quella dell'inglese, evidentemente, no? Perché è assolutamente... Chiudo con due grandissime cose, una per rafforzare quanto si è detto. La natura è un tempio, traduco, perché dove pilastri vivi lasciano talora uscire confuse parole. Parole in francese non è come mot, sono proprio le parole chiave, no? E questo, scusate, in francese: l'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. L'uomo ci passa attraverso la natura, attraversando delle foreste di simboli che lo osservano con sguardi familiari. Ancora, noi abbiamo un mondo che incombe positivamente, io credo, su di noi, che è l'immigrazione, anche la migliore immigrazione, perché ovviamente c'è un'immigrazione anche, io non mi stanco di dirlo, per questo pur ritenendomi un progressista, sono per una limitazione anche dei flussi migratori, però c'è un'immigrazione ovviamente feconda e un'immigrazione che ci porta molto, ci arricchisce. Voglio citare, per esempio, dall'estremo occidente dell'Oceano Pacifico, il poeta che è Luis Antonio Salcedo Vergara, qui credo si capisca: mi piel es negra y mi escudo una estrella. La mia pelle è negra e il mio scudo una stella. Llevo en la sonrisa la luna, alzo nel sorriso la luna, y en mis ojos las querellas, e nei miei occhi alzo le sorgenti. Tengo acuñada en mis vértebras una a una el recuerdo de las cadenas. Tengo aguzze nelle mie vertebre ad una il ricordo delle catene. E qui è il mulatto di Buenaventura in Valle del Cauca, nell'ovest del Pacifico colombiano, che è diventato poeta e docente di ragioneria generale all'università locale del Pacifico, fa considerazioni. Ecco, qui sì c'è un pretesto politico, però è una cosa importante che risale all'atavismo, e all'atavismo però che viene poeticamente modificato. Ecco, quindi queste contaminazioni credo saranno feconde, spero saranno feconde, pur con quanto dicevo i limiti. Allora ripartiamo con Franco Maria Maggi, Bolzano mia. Questa Bolzano di armature arrugginite, sferraglianti come locomotive dismesse, ingolfata di traffico da far paura, rauca, povera di spirito. Questa Bolzano inginocchiata nelle chiese strapiene, sventrata come un'anguria, spremuta come un limone. Bolzano porca, Bolzano avara, Bolzano bigotta, Bolzano, fermati. Giuseppe Maiolo. Mm. Non abbiamo parole noi, figli della guerra, e non chiederci sorrisi. Questa è una terra morta da tempo, dove le mani tagliano l'aria e i volti invecchiano come macchie di pietra. Ci hanno inventato nei giorni di doppia pioggia, non i padri esuli sul pendio, nelle madri bianche nell'ora del gioco, ma la rabbia dei poveri al canto delle sirene. Antonio Manfredi. Con dolcezza e silenzio scorre la quotidiana passeggiata, minuto per minuto, passo dietro passo, rinnovandosi e arricchendosi come la vita di invenzioni, significati, scoperte in cui s'accende e rigenera il cuore qualcosa che brilla e consola, apre la corsa nella libertà della mente, nella certezza del gesto. Quanto basta a illuminarti passo dietro passo, minuto per minuto. Francesco Mani. Ora che tutto fugge. Ora che tutto fugge e lo sguardo non ferma il tempo, ora che nelle vene il sangue scorre e non cristallizza in rubini, ora che Dio è una molecola sperduta tra i neuroni, cos'è che grida alla finestra e le ansie irrompono con strepito selvaggio? Ora che l'aria della sera gonfia i capelli, ora che sono un segreto ancora, cosa sono i miei mali? Sbadati processi? Ho il freddo nella mente e sento ancora il tempo di quando aveva le dimensioni delle foglie e degli alberi, mostri immensi che affondavano le cime nella notte. Maria Grazia Marchi. Pasqua. Non facciamo conto di come hanno agito gli altri. Comprendere e perdonare sono cavilli di vocabolario. Dentro i gridi che riempiono le bocche rimane nella storia l'odore di Auschwitz. Soldati, a noi non servono più bianche vestali. La notte ha strangolato il fuoco sacro, come al vento le bandiere in brandelli sono i morti dispiegati nell'eterno. Giancarlo Mariani, Le stagioni della vita. Una pirra per due in piazza Brunelleschi o in via degli Alfani. L'ottimismo e la lotta. I progetti sul dopo, lo schianto sul muraglione con Stelio a svitare la croce dal coperchio della bara. Al circolo Rosselli, prima che venisse tua madre a vegliarti, tutta la notte, chiamando Giovanni sottovoce, con disperata dolcezza, come persa tra il richiamo alla vita o addormentarti. La partenza dal viale dei Colli, ex corde montis, per la via bolognese, bandiere rosse, canto di speranza e di pianto. Non ho mai voluto gridare perché non si incrinasse il cristallo del silenzio della valle. Gianfranco Massimi. Fragilità. In ogni istante del tempo la perfezione dell'universo. Illusorie forme scorrono via, riflesse nel vento della memoria. Non una sola immagine che non sia astrazione, fragilità. Forse ricami, rammendi. I pensieri tessono la vita legata al filo d'un aquilone. Lo specchio è infranto, ma tu continuerai ad esistere. Insieme abbiamo sentito cantare l'acqua. Josef Maurer. Vivere ogni giorno. Vivere ogni giorno e senza speranza. Solo nel turbine degli alti pensieri di Spinoza, Pascal, Leonardo ed Einstein. Solo all'ombra dei poeti mudì, travolti dalla foga stritolante, dalla macchina crudele, dall'angoscia esistenziale della vita, è destino segnato, è legge ormai sancita in quest'era furibonda di bagliori atomici. Non più la leggenda di paesaggi fiabeschi, non più il sogno di mirabili mondi genuini, Capri, Concadoro, Assisi, Giordano Bruno. Eroico appare il rombo rauco dei motori, rumore di circolo equestre, box e corrida, arena di bestiali limiti, istintivi e di tumulto. E del mite Cristo nemmeno un sussulto. Maria Luise Maurer. Il ragno. Oddio, vorrei credere in te, ma ho dimenticato le preghiere fin da quando ero bambina. Vivo nella tremenda paura di non trovarti più. Così lontana è la vita che porta al tuo cuore, allorché non si è più innocenti, ma terribilmente adulti. Il tuo nome, mio Dio, non mi dice più nulla. Gesù mi salverà? I miracoli a cui ho creduto sono da tempo impalliditi. Lasciate che i bimbi vengano a me, hai detto, perché di loro è il regno dei cieli. Non avessi mai assaggiato il frutto dell'albero della vita. In nome dei bimbi innocenti, ti supplico, salvami, perché già il ragno del dubbio mi vuole imprigionare. In un angolo del mio cuore è ancora appeso il filo d'oro della fede. Ti butto il gomitolo, tienilo tra le tue mani. Non lasciare che il filo si spezzi, altrimenti il ragno mi irretirà. Anna Maria Mondini, amico, vieni con me questa sera, ti prego. Andremo al bar di fronte, berremo qualcosa, poi parleremo, io di te ed io di me. Non importa se non esisti. Se questo è solo un sogno, io ci sarò comunque. Sirmione. Nell'aria un volo di gabbiani e folaghe seguiva una muta sinfonia, intessendo invisibili gli arabeschi. A fior d'acqua, germani petulanti e trasognati cigni. Era quasi sera. L'ora delle argente brume e delle prime dolcissime braccia d'ombra. Salvatore Panuccio, da Chimera. Prati fioriti anche nel deserto, per una nuova vita sotto il cielo. Vorrei che ognuno avesse un cuor sincero. Vorrei che si inceppasse ogni cannone, qualsiasi arma non sparasse più, che ognuno fosse sazio di giustizia, di uguaglianza, non avesse fame. Maria Ragnoni Frenkel, Eugenio. Il dovere ti chiama da una parte, la gioventù dall'altra. Sei leale e ti immergi nei calcoli più astrusi. Ecco i dati. I tuoi anni 22, le difficili prove scritte orali, il telefono della bella bionda e i 6 giorni che mancano all'esame. Con tanto